La crisi economica, ma anche istituzionale e democratica che attanaglia il Venezuela. La procuratrice Luisa Ortega, scappata dal paese, dice dal Brasile: ho le prove della corruzione di Maduro. E poi in Thailandia per l'ultimo atto della dinastia dei Thaksin. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. What has established in Venezuela is a criminal state. China se entienda con el pueblo venezolano para que sus proyectos futuros en Venezuela. Este país sean viables. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, il vostro osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Tali, Elisa Pancaldi che sono in redazione e Gianmarco Ferronato che è in regia. Vi ricordo che anche quest'oggi, ultima puntata della settimana di Nessun Luogo Lontano, potete porre domande o fare commenti sui nostri social. La pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, lì trovate anche la diretta della trasmissione. Poi siamo su Twitter, potete twittare a Nessun Luogo 24 oppure a Giampaz. E poi il 349-238-6666 vale sia per gli SMS che per i WhatsApp. Come anticipato dalla nostra copertina, andiamo in Venezuela. Andiamo in Venezuela perché la crisi, lo dicevo, economica ma anche istituzionale e democratica ha nuovi capitoli praticamente ogni giorno. L'ultimissimo capitolo della lunga vicenda, che suona un po' istituzionale ma anche giudiziaria a questo punto, sono le parole che ha tuonato Luisa Ortega, procuratrice venezuelana che ha lasciato Caracas, è scappata poi in Colombia, forse lo ricorderete dai notiziari, e poi però ieri si è presentata a una riunione del Mercosur, l'alleanza dei, l'alleanza economica dei paesi del Sud America, e dal palco brasiliano ha detto: attenzione, perché io ho le prove della corruzione di Nicolás Maduro. In realtà un dossier piuttosto complicato, ma ci andremo meglio tra le pieghe, tra le pagine di quel dossier nel proseguo della puntata. Allora, prima di andare in diretta a Caracas, ricapitoliamo gli ultimi eventi venezuelani. Nel dicembre 2015, l'opposizione del MUD, Mesa della Unità Democratica, vince le elezioni venezuelane, raggiungendo la maggioranza in Parlamento con oltre 7 milioni di voti, contro i 5 milioni e 600 mila del presidente Nicolás Maduro. Ma il risultato del voto viene subito contestato. Maduro sostituisce alcuni dei magistrati della Corte Suprema di Giustizia con alcuni fedelissimi del suo Partito Socialista Unito del Venezuela e inizia un braccio di ferro con il Parlamento controllato dall'opposizione. All'inizio del 2017, il Parlamento blocca una norma che permetterebbe alla società petrolifera di Stato, PDVSA, di formare joint venture con società private, una decisione che il governo contesta appellandosi alla Corte Suprema, la quale prova ad esautorare il Parlamento e a prenderne i poteri. Le vigorose proteste e le prime vittime sul campo fanno ritornare la Corte Suprema sui propri passi, ma il 3 maggio Maduro ordina la formazione di una nuova assemblea costituente per cambiare la Costituzione. Una mossa che scatena altre proteste e altri scontri di piazza. Ai primi di maggio l'opposizione interrompe il dialogo con Maduro e decide di proseguire le proteste, rese ancora più dure dalla scarsità di generi alimentari nei mercati di tutto il paese. E subito dopo, mentre gli USA iniziano ad applicare sanzioni economiche, il presidente presenta il suo piano per un'assemblea costituente composta da 540 membri e sostiene che le proteste siano sostenute dagli americani per rovesciare il socialismo del XXI secolo. Intanto vengono ristrette le libertà sul web e a molti leader e molti personaggi istituzionali che si oppongono a Maduro vengono applicate sanzioni. Tra loro c'è Luisa Ortega Diaz, la procuratrice generale che sostiene l'illegittimità della nuova assemblea costituente. Il 19 agosto Ortega Diaz fugge in Colombia insieme al marito e annuncia di avere prove sul coinvolgimento diretto di Maduro nel caso Obrecht, un maxi scandalo a base di corruzione che ha scosso le fondamenta del sistema politico brasiliano e adesso, secondo l'ex procuratrice generale, potrebbe coinvolgere anche i vertici del governo venezuelano. Questa è la fotografia aggiornata alle ultimissime ore di quello che è accaduto e sta accadendo in Venezuela. Allora andiamo in Venezuela, andiamo a Caracas, lo facciamo con Barbara Schiavulli, giornalista freelance, ricordo il suo ultimo libro, è Quando muoio lo dico addio, storie di ordinario estremismo, cofondatrice di Radio Bullets, una web radio che tratta proprio di esteri. Barbara Schiavulli, buongiorno, ben ritrovata, anzi benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, dove ti trovi innanzitutto, in quale zona di Caracas e che aria tira nella capitale venezuelana in queste ore? In questo momento mi trovo proprio a Caracas, nella capitale, e devo dire che è abbastanza calma. Le proteste si sono perlomeno al momento rallentate, anche perché c'è stato un accordo dell'opposizione di seguire, poi magari ne parleremo più avanti, ci saranno queste elezioni a ottobre sui governatorati, quindi resta una situazione calma. Molti dicono però che potrebbe essere una calma prima della tempesta, perché la situazione economica, oltre a quella politica, è veramente grave in questo paese. Vedremo se, come dire, la nuova miccia saranno proprio l'avvicinarsi di queste elezioni per il governatorato, lo ricordavi, molto molto importante, e poi raccontiamo meglio come l'opposizione sta reagendo rispetto a questo appuntamento elettorale. Partiamo da questa opposizione, quel che resta dell'opposizione, visti anche gli arresti e un indebolimento probabilmente, anche forse una certa stanchezza da parte dell'opposizione. Tu hai sentito Maria Corina Machado, sentiamo la sua voce, sentite come racconta quello che accade adesso in Venezuela. This goes beyond a traditional or conventional dictatorship. Quello che sta accadendo in Venezuela va oltre una tradizionale o convenzionale dittatura. Quello che si è creato in Venezuela è uno stato criminale. Qualcuno lo chiama una narcodittatura, uno stato mafioso. Potete chiamarla come volete. Resta uno stato criminale dove coscientemente chi ha il potere ha creato profonde e complicate relazioni con le reti criminali. Narcotraffico, sì, ma anche organizzazioni lucrative e illegali che raggiungono il terrorismo. Lucrative and illegal nature that even reaches terrorism. E sentite ancora Maria Corina Machado, uno dei leader del partito dell'opposizione, un ingegnere cinquantenne, molto amata dalla piazza. Sentite ancora questo suo tratteggio venezuelano. The dictatorship out and rebuild this country. And that would be... Via la dittatura e avviamo la ricostruzione del paese con un governo di transizione, un governo di unità, perché le riforme saranno enormi. Se le cose restano così, non riconoscerete il Venezuela nei prossimi 2 mesi. Sarà molto, molto peggio. Things will be much, much worse. Children with cancer dying every day. Bambini con il cancro muoiono ogni giorno. Ho talmente tanti casi vicini di persone che devono scegliere o di dare da mangiare ai figli o di dare le medicine agli anziani. Ovviamente gli anziani non vogliono prendere le medicine e muoiono. Muoiono. E queste morti non sono nelle cifre ufficiali. Chi si deve biasimare? And those deaths are not in the government toll. Who's the one to blame? Allora, Barbara Schiavulli, in diretta da Caracas, chi è questa Maria Corina Machado che abbiamo sentito così tranchant nel suo tratteggio della situazione, così fermamente convinta a puntare il dito contro Maduro? Aiutaci a capire che tipo di personaggio è. Ma viene da una delle più importanti famiglie venezuelane che si occupavano dell'acciaio. Adesso praticamente tutta l'industria venezuelana è morta. Adesso tutto si basa solo sul petrolio. Lei è un ingegnere, molto amata, però qualcuno mi diceva sì, è una, tra l'altro anche una donna bellissima, ma è un po' troppo bianca per poter essere il leader futuro del Venezuela, perché non rappresenta tutte le varie etnie che ci sono nel paese. Però è una delle persone che mi sembra, parlando con la gente in giro, presa maggiormente in considerazione. Ci sono 3-4 leader dell'opposizione importanti. Ora, che cosa è successo? Il 30 luglio, quando c'è stata l'elezione, la nomina dell'Assemblea Costituente, si è spaccata l'opposizione. Da una parte quelli che nessuno l'ha riconosciuto, ovviamente perché viene ritenuto un inganno, questa è la parola che ti dicono sempre, fraudolenta, fraudolenta, l'avrò sentito almeno 50 volte da quando sono qui. Però c'è qualcuno che vorrà partecipare alle elezioni prossime che sono state indette da questa Costituente, dove non c'è nessuno all'interno che sostituisce il Parlamento, ma dove non c'è nessuno dell'opposizione, che in questo momento al Parlamento invece aveva dei deputati, all'opposizione anzi aveva proprio la maggioranza. Pure è stato sospeso il Parlamento, al posto suo c'è questa Costituente. La Machado è una di quelle che ha detto no, io non vado alle elezioni perché sarebbe in qualche modo come legittimare qualsiasi decisione che arriva oggi da questa Costituente. Sì. Invece altri hanno detto, tutto sommato, meglio essere all'interno e lavorare da dentro e vedere cosa succede. Questo è un po', diciamo, il grande discrimine che l'opposizione, la grande domanda che l'opposizione si fa in vista delle elezioni per il governatorato di ottobre, cioè uscire dai giochi oppure provare da dentro a cambiare le cose. Esatto, tutto questo però fa gioco all'amministrazione Maduro, che cerca di guadagnare tempo. Per cosa? Perché probabilmente si alzi un pochino il prezzo del petrolio, perché quella è l'unica via di uscita. Sulle questioni poi prettamente economiche solleciterò anche Roberto Dain, inviato del Sole 24 Ore, esperto dell'America Latina ma anche di Venezuela ovviamente, che mi ha appena raggiunto in studio. Buongiorno intanto Roberto, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Continuiamo con Barbara Schiavulli in diretta da Caracas, perché hai raccolto altre voci e una voce particolarmente significativa, mi sembra, insomma, per quello che dice, per come lo dice, è la voce del capitano Cliver Alcalá, uno dei 400 ufficiali che parteciparono al colpo di stato del 92 che portò Chavez al potere. Lo sentiamo insieme. La Repubblica Cina, Chinese Republic, desista di continuare appoggiando a Maduro. La Repubblica Cinese deve desistere dal sostenere Maduro e credo che al momento sia l'unico sostegno economico di Maduro. La Cina deve capire che deve fare delle negoziazioni con il popolo venezuelano se vuole che i suoi progetti futuri nel nostro paese vadano in porto e che si instauri una vera relazione di rispetto tra i due paesi. Infine, credo che la gente venezuelana debba assumersi la responsabilità della guida del paese per evitare ulteriori perdite. Para evitar más pérdidas de vida. La musica che ci accompagna in questa puntata, in questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano, tutta dedicata al Venezuela, è un mambo dell'orchestra Simón Bolívar, molto molto nota non soltanto in Venezuela ovviamente ma anche all'estero, e poi vi racconterò un paio di aneddoti che riguardano la musica di Caracas. Siamo sia con Roberto Darin del Sole 24 Ore ma anche con Barbara Schiavulli in diretta da Caracas, a cui chiedo di raccontare, dopo che abbiamo sentito quest'ultimo incontro, intanto via WhatsApp e via SMS ci sono ascoltatori che ricordano quanto profonda sia la crisi non solo alimentare ma anche sanitaria nel paese. C'è qualcun altro che dice la signora Machado, fra l'altro vedendo il prefisso mi sembra anche un prefisso venezuelano, anzi lo è, quindi ci ascolta dal Venezuela. Questo ascoltatore dice che in realtà la Machado, secondo lui, non ha tutto questo sostegno da parte della folla, della piazza, diciamo. Barbara Schiavulli, tu sei entrata anche in un ospedale universitario, sentiamo questa testimonianza. Supuestamente è stato un paese tan ricco come Venezuela. In uno stato ricco come il Venezuela si dovrebbero dare al Ministero della Salute tutte le risorse necessarie. Quando le risorse vengono dirottate, significa che non si ha una supervisione per mantenere un sistema efficiente della sanità. La bambina è qui in ospedale da 6 mesi e Orita compirà un anno di vita il 30 agosto. Noi, come venezuelani, vogliamo che il mondo si renda conto che il governo che abbiamo non è il governo che vogliamo e non è il governo adeguato per offrirci un giusto apparato sanitario. Non è l'adeguato per che nos gobierne in quanto a tutto lo che è. Mira lo che stiamo vivendo. Barbara Schiavulli in diretta da Caracas, giornalista freelance, cofondatrice di Radio Bullets, ci sta raccontando, ha raccolto un po' di voci, ci sta raccontando anche la situazione in cui versano gli ospedali. In particolare hai visitato, Barbara, un ospedale universitario a Caracas. Da quello che sentiamo la situazione non è affatto confortante. No, sembra veramente di entrare di un ospedale in piena decadenza, c'erano gli scarafaggi che si arrampicavano sui muri, ma la cosa più sconvolgente è che adesso nel paese non si trova l'87% delle medicine. Se uno va in farmacia, se trova quello che sta cercando a un prezzo talmente alto che comunque non può comprarselo. Si trova qualcosa al mercato nero, ma alcuni farmaci specifici, soprattutto per chi ha il cancro o per altre patologie, non lo trova e non c'è modo per farle arrivare. Io stessa sono partita con un medicinale antirigetto per una ragazza che è stata operata, le è stato trapiantato il fegato. Sì. Il problema è che questo medicinale vale per 30 giorni e poi cosa succederà? Ho qualche statistica, tipo il 65% della mortalità infantile è aumentato, questo è l'aumento che c'è stato in un anno, il 30% invece per quello della maternità, mortalità, sì, parliamo sempre. All'ospedale, sì, di cardiologia per bambini ci sono 40.000 bambini in attesa di un intervento. Il problema è che la gente che entra gli viene chiesto di pagare perfino la mascherina che il medico deve usare per fare l'intervento. Non c'è più soldi per niente. Probabilmente è stato mangiato ormai tutto dall'amministrazione politica. Barbara Schiavullo, sei riuscita a parlare con i sostenitori di Nicolás Maduro? Chi sostiene ancora il presidente e perché lo sostiene? Guarda, è molto difficile. Oggi forse siamo riusciti a trovare qualcuno pro Maduro, ma perché non parlano con i giornalisti internazionali? C'è questa sorta di aurea che noi ci portiamo dietro di essere assolutamente contro. Io non è che sono contro pro qualcuno, io sono, sì, qui e faccio parlare tutti quelli che vogliono parlare. Sì. Però se mi viene negata l'intervista, ovviamente perdi lo spazio che invece avresti potuto avere. Sì, perché Barbara, il dossier venezuelano alla pari di altri dossier internazionali, quello ucraino per esempio, israelo-palestinese, insomma è un dossier particolarmente divisorio, particolarmente ideologico per la storia del Venezuela, no? C'è sempre questo schieramento calcistico, ne sono prova gli sms che riceviamo ogni volta che trattiamo questi temi, veniamo accusati di essere golpisti, in una stessa puntata sono stato accusato di essere filosionista e collaborazionista palestinese nel giro di 30 secondi, insomma segno che sono tematiche con evidentemente nervi scoperti. Secondo te è un ordine di scuderia, e mi chiedo scusa per questa puerile etichetta che do, cioè Nicolás Maduro dice attenzione a quello che dite, meglio parlate, meno parlate meglio è? Ma sicuramente qualcuno per parlare preferisce farlo da fuori, quindi non dentro al paese, perché comunque c'è un controllo, però sulla stampa internazionale tutto sommato c'è questa sorta di paura che comunque noi siamo contro questa sinistra che è particolarmente radicale, se vogliamo chiamarla sinistra. Per me quando vai oltre l'ideologia, quando diventa una radicalizzazione, ecco, è di per sé sbagliata che sia destra o sinistra. Qui, certo, io guardo i fatti, c'è la gente che fa la fila per comprare la carta igienica, c'è qualcosa che non va. Sì, sì. Allora intanto al 349-238-6666 c'è già chi anticipa, invoca la voce di Roberto Darin, perché mi dice quali interessi ha la Cina in Venezuela, per esempio. Adesso tra poco coinvolgo Roberto. L'ultimissima domanda per Barbara Schiavulli, giornalista freelance in diretta da Caracas. Allora, non ci sono più proteste, la situazione si è tranquillizzata, evidentemente le due parti stanno scaldando i muscoli per l'appuntamento elettorale di ottobre. Chi è l'anima adesso dell'opposizione contro Maduro? Sono più giovani, sono più universitari? Beh, da quello che riesco a capire, e io sono qua solo da una settimana, quindi muoversi è anche difficile, ma non tanto perché la gente non ti parla, anzi, devo dire, sono tutti molto volenterosi, ma qua, sì, il problema è la criminalità dilagante. Quasi tutte, la mia stessa traduttrice che gira con me è stata rapita un anno fa, poi viene rilasciata, ma è criminalità spiccia, la sera non si può uscire, prima accennavi alla musica e io una sera avrei avuto piacere, tra virgolette, di andarmi a ballare la salsa, perché il Venezuela è uno dei paesi, sì, dove c'è la salsa. Invece non c'è più, la gente ha talmente paura di uscire di casa, qui alle 7 di sera non c'è più nessuno in giro, sì, diciamo, oltre che al fatto che dove vai? Il problema della criminalità venezuelana, insomma, è un problema che è datato ormai da tempo. Io ho amici che hanno vissuto a Caracas e tutti mi dicono: se vivi per un certo periodo di tempo a Caracas, prima o poi qualcuno ti punterà una pistola alla tempia, ma semplicemente per un furto, semplicemente ovviamente tra virgolette. Io ringrazio tantissimo. Esatto, ma adesso sono anche poveri. Certo, e quindi ovviamente certe dinamiche vengono accentuate. Grazie mille. Barbara Schiavulli, giornalista freelance, ricordo il suo ultimo libro, Quando muoio lo dico addio, storie di ordinario estremismo, su tutt'altro tema, cofondatrice di Radio Bullets. Barbara, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Allora, continuiamo questa pagina tutta venezuelana, lo facciamo con Roberto Darin, inviato del Sole 24 Ore per l'America Latina. Ci sono un po' di domande di ascoltatori, caro Roberto, però c'è intanto una notizia fresca che è la sostituzione ai vertici di PDVSA, che merita decisamente la nostra attenzione. Sì, la sostituzione al vertice di PDVSA si spiega col fatto che il nuovo... fino all'altro ieri era Delpino il direttore barra presidente di PDVSA, che ora è diventato ministro del petrolio. Il Venezuela ha un ministero del petrolio. Questo avvicendamento si spiega soprattutto col fatto che Delpino ha una certa, come dire, presentabilità e autorevolezza per parlare agli investitori istituzionali, e ciò che chiede Maduro al nuovo ministro del petrolio è fare un giro internazionale per accreditarsi e per far sì che le compagnie internazionali che se ne sono andate o hanno ridotto gli investimenti ritornino. Quindi lui è stato nominato per essere quindi per fronteggiare questa emergenza in un settore critico come quello dell'estrazione di greggio. Il petrolio, come è stato più volte ribadito, è l'unica risorsa del Venezuela. Sì. Il 90% delle entrate in dollari sono determinate dalla vendita di greggio, quindi gli investimenti petroliferi sono particolarmente cruciali. Allora, rimaniamo in tema finanziario. Ci sono le borse, credo. Gianmarco Ferronato. Sì, benissimo. Allora, informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. La Prima Guerra Mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, ultima leva ad essere chiamata alle armi. E quest'anno diventano maggiorenni altri ragazzi del 99, nati 100 anni dopo, nel 1999. Diventano grandi non in guerra, ma partono anche loro per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato per una gara sportiva. Radio 24 ve li racconta, ragazzi del 99, incontrandoli e facendoli parlare. Di cosa fanno, cosa vorrebbero cambiare, come disegnano il loro futuro. Ritratti di ragazzi straordinariamente normali. I ragazzi del 99 di Maria Piera Ceci. Il sabato alle 14.30 e la domenica alle 9.30 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo è Lontano. La musica che sentite è l'orchestra diretta da Gustavo Dudamel, grande direttore d'orchestra Il Sistema, lui che per anni, come dire, aveva taciuto le critiche verso Nicolás Maduro, l'aveva fatto perché intanto non si era mai esposto politicamente e poi insomma diceva: beh, devo continuare a lavorare qui e forse è meglio tenere la barca intera, una istituzione così importante per la cultura venezuelana, non solo in Venezuela ma anche nel mondo. Poi cosa è successo? È successo che si è pronunciato, perché lo attaccavano, dicevano: ma come, tu personalità preminente che non attacchi quello che sta accadendo? E insomma, così si è beccato gli insulti sia da una parte che dall'altra, e questo fra l'altro mi ricorda anche un po' la nostra posizione. E, che è successo nei giorni scorsi? Beh, che Maduro ha cancellato la tournée statunitense. Adesso pare, però, voci indiscrezioni mi dicevano poche ore fa che la tournée americana si dovrebbe fare. Detto ciò, torniamo a Roberto Darin, continuiamo a parlare di economia, facciamo una piccola fotografia appunto strettamente economica del Venezuela. Con le sue immense riserve di petrolio, il Venezuela è considerato l'Arabia Saudita dell'America Latina. Ma nello stesso tempo si ritrova ormai con un'inflazione schizzata al 700%, previsioni di un calo del 10% del PIL, un impressionante tasso di criminalità e interminabili code di affamati che premono alla frontiera con la Colombia per attraversare il confine e procurarsi cibo e medicine. La ragione principale va ricondotta al crollo del prezzo del petrolio, che se nel 2014 si aggirava sui $100 al barile, nel 2016 è crollato fino a quota $26 e oggi veleggia intorno ai $50. Caracas non è riuscita a rendere la sua economia indipendente dalle esportazioni di petrolio e allo stesso tempo la decisione di Maduro di stampare moneta a ritmi forsennati ha ridotto gli stipendi e i posti di lavoro. La sua ostilità nei confronti delle multinazionali straniere, inoltre, ha condotto giganti come Pepsi, General Motors e United Airlines a ridurre drasticamente le loro operazioni o addirittura ad abbandonare il Venezuela. Così, alla fine dell'anno, i prezzi potrebbero registrare un aumento del 2000% e oggi un dollaro viene scambiato ufficialmente a 8.000 bolivar, mentre solo 7 anni fa il cambio era di 1 a 8. Nicolás Maduro, da parte sua, continua a sostenere che con le sanzioni gli Stati Uniti abbiano lanciato una guerra economica contro il Venezuela e che il disastro economico di Caracas sia da attribuire ai suoi oppositori in combutta con Washington. La partita politica che gioca Nicolás Maduro, ma che gioca anche l'opposizione, è una partita fatta di propaganda, lo avete anche sentito, è molto forte, non si risparmiano colpi da una parte e dall'altra, e forse Roberto Darin, ma me lo dicevi prima, lo possiamo svelare, no? Mentre eravamo in pausa, l'ingerenza di paesi stranieri che quasi combattono guerre ideologiche per procura, o quantomeno su un campo terzo, non fa che rinfocolare quello che sta accadendo, questa grande polarizzazione pro e contro. Partiamo però dal ruolo degli Stati Uniti e di queste sanzioni. Sì, in effetti le sanzioni potrebbero essere addirittura annunciate oggi dagli Stati Uniti, sanzioni sulle esportazioni di greggio dal Venezuela. Una sanzione significa un'arma a doppio taglio, perché da una parte evidentemente verrebbe sfavorito il Venezuela e penalizzato il Venezuela, che patirebbe dei dazi esorbitanti, quindi in una situazione già economicamente critica, ma dall'altro il fabbisogno petrolifero che gli Stati Uniti attualmente necessitano dal Venezuela verrebbe ad essere di fatto compromesso, quindi, come dire, un gioco a somma negativa per entrambi. Prima considerazione, quindi sì, le sanzioni potrebbero essere pericolose sia per il Venezuela sia per gli Stati Uniti. Questa è la prima considerazione. Purtroppo quanto è stato detto nella scheda è tutto vero, cioè sono accuse reciproche fondate su fatti, cioè da una parte il governo sta producendo dei danni gravissimi, non si trovano farmaci, il cibo è razionato, la situazione è drammatica. Dall'altro però questa contrapposizione così frontale da parte degli Stati Uniti in qualche modo dà ossigeno al Venezuela e fa dire a Maduro è colpa loro, è colpa degli americani, quindi ecco, come dire, ci sono delle responsabilità ripartite, ecco, compartite, quindi la situazione è complessa, c'è una propaganda negativa reciproca e ciascuno ha le proprie responsabilità. Ora, entro fine ottobre e primi di novembre ci sarebbero 2 miliardi di dollari in scadenza di titoli che il Venezuela deve onorare, quindi deve pagare delle cedole di obbligazioni. Ok. Non è una cifra esorbitante, però in una situazione emergenziale in cui gli Stati Uniti effettivamente dovessero annunciare nei prossimi giorni oppure addirittura oggi delle sanzioni, il Venezuela potrebbe andare in default tra fine ottobre e inizio novembre. Che succede? Succede qualcosa, un ulteriore aggravamento della crisi. Qualche osservatore ha detto potrebbe esserci una cronicizzazione tipo Siria del Venezuela. Questa è un'ipotesi 1. Un'ipotesi 2 Una seconda ipotesi è questa, è che Maduro possa, con l'appoggio di India, Cina e Russia, non dimentichiamo che sono tre superpotenze che sono dalla parte del Venezuela, sì, potrebbe avere i soldi, recuperare questi 2 miliardi di dollari per fronteggiare il pagamento delle obbligazioni in scadenza. Questo cosa significa? Che sarebbe una doppia vittoria per Maduro e quindi un autogol per gli Stati Uniti se gli fanno far default, perché quelli potrebbero dire: dei vostri dollari non me ne frega niente, noi abbiamo grandi attori internazionali, potenze mondiali, India, Cina e Russia, che ci aiutano nel fronteggiare questa situazione emergenziale. Quindi ecco, lo scacchiere, come vediamo, è complesso, difficile capire quali saranno le prossime mosse. Di certo c'è molta propaganda su entrambi i fronti. Ecco, se sintetizzo, lo faccio in maniera un po' prosaica, se volete, insomma, gli Stati Uniti potrebbero buttare a mare Maduro, il salvagente glielo danno India, Cina e Russia, e questo chiaramente va, come dire, a rinsaldare una polarizzazione che già evidentemente è molto forte. India, Cina, Russia è un asse per sopravvivere per il Venezuela, però non solo petrolio. A questo punto, voglio dire, è inevitabile che prima o poi l'economia venezuelana vada ad affidarsi su altri pilastri. A quel punto dove? Altri pilastri, cosa vuol dire? Oltre al petrolio, no? Oltre al petrolio. Ah no, no, certo, la dipendenza è una dipendenza storica, certo. Tutti se lo sono auspicati. L'errore più grave da attribuire all'ex presidente Hugo Chavez, che è stato peraltro un personaggio che sul proscenio internazionale si è fatto riconoscere e contestare, ma anche acclamare da decine di paesi, questo è stato il suo errore più grande, cioè affrancare, liberare il Venezuela da questa dipendenza del petrolio, quindi la maledizione delle materie prime ha colpito non solo i paesi arabi ma anche i medio orientali, ma anche il Venezuela. Il Venezuela avrebbe avuto anche le risorse di un'immigrazione europea di lunga data che avrebbe potuto costituire in qualche modo un tessuto di piccole e medie imprese, anche italiane, no? Anche italiane, di origine italiane, forte, ovviamente. Sì. Non di migrazione recente, però sì. Questo è stato il maggior fallimento. Difficile pensare che queste non sono operazioni che si possono fare né in 3, né in 5, né in 10 anni. Sono percorsi lunghissimi di chi riesce a costituire un nuovo tessuto che non sia appunto solo una nuova economia, una nuova società che non sia basata solamente sulle esportazioni di petrolio. Però appunto stiamo parlando del lunghissimo termine, perché il Venezuela è il paese al mondo che possiede le maggiori riserve di greggio, quindi questa strepitosa ricchezza fa sì che tutti i presidenti sostanzialmente si adagino su un vantaggio che altri non hanno, e da qui sono derivati i gran mali di questo bellissimo paese. Insomma, la politica, ancora una volta, che dovrebbe avere visioni di lungo termine, ma la politica, ma lo sappiamo anche in territorio nostrano, vive sul brevissimo termine, sul cortissimo termine, su promesse, e quindi invece immaginare il Venezuela che sarà da qua a 20, a 30 anni, chiaramente elettoralmente è difficile che paghi, perché richiede investimenti, cambiamenti, eccetera. Sul brevissimo termine, Roberto Derin, volevo sollecitarti e capire che idea ti sei fatto, le dichiarazioni della Luisa Ortega, che dal Brasile, dopo essere scappata in barca, un'isoletta davanti alla costa nord del Venezuela, poi arrivata in Colombia, poi era in Brasile per il Mercosur, ha detto: attenzione che io ho le prove della corruzione di Maduro. Ennesima operazione di propaganda o c'è qualcosa secondo te? Nessuno lo potrà svelare questo mistero. Sì, certamente potrebbe essere operazione di propaganda, potrebbe essere effettivamente vero che Maduro, come altri personaggi del governo di Palacio Mira Flores, siano stati corrotti e abbiano intascato tangenti, quindi tutte le opzioni sono aperte. Di certo, quando si creano situazioni di questo tipo, quindi un esilio, una fuga, la prima vittima di queste circostanze è sempre la verità, che viene a galla dopo tanto tempo oppure non viene mai a galla. Di certo anche questa in ogni caso è questo è un esempio di un contesto politico interno esacerbato, di una conflittualità alle stelle tra governo e Parlamento. Il Parlamento è in mano all'opposizione, quindi ecco un altro spunto per ricordare quanto la contrapposizione sia frontale tra sostenitori e oppositori di Maduro. L'ultimissima domanda, prima di lasciarti il tuo lavoro, Roberto Darin, abbiamo evocato quello che potrebbe essere appunto l'intervento di India, Russia e Cina, che già, voglio dire, guardano attentamente a quello che accade a Caracas. C'è un ascoltatore che dice che secondo lui, insomma, a parte l'India, la vera potenza emergente è la Russia. Se poi sinteticamente, cosa India, Cina e Russia potrebbero fare nel teatro venezuelano? Cioè, con quali differenze si muovono rispetto a Caracas, anche data la diversità, no? Non solo demografica, ma anche sì, no, dei la mercati. Domanda tua è molto pertinente, però la risposta è semplice. L'India è un paese che produce farmaci a basso costo e quindi l'industria farmaceutica indiana ha esportato quote importanti in Venezuela, in cambio naturalmente di petrolio. Certo. O prodotti petrochimici. Quindi l'India, ad esempio, ha preso le distanze da tutti coloro che hanno condannato l'insediamento della nuova assemblea costituente di Maduro proprio per interessi economici. Sì. La Cina ha investito qualcosa come 20 billions, miliardi di dollari in Venezuela. Quindi anche lì ha preso le distanze, ha interessi economici tanto forti da poter sostenere e voler sostenere Maduro. La Russia ha interessi sempre economici e poi anche geopolitici, perché naturalmente è a un passo dagli Stati Uniti, quindi avere un appoggio, una base di paese amico vicino agli Stati Uniti nella Russia di Putin è un vantaggio da tenere in considerazione. Poi qui si apre anche un'altra lunga parentesi che credo potremmo aprire, approfondire in un'altra occasione, sono le stazioni di servizio e le raffinerie che di proprietà del Venezuela che sono stabilite negli Stati Uniti, di cui la Russia ora è diventata garante a fronte di un prestito che ha fornito al Venezuela. Quindi, come dire, intrecci molto incrociati che hanno fatto preoccupare e infuriare alcuni senatori americani che si sono trovati russi proprietari delle stazioni di servizio CITGO, come dire ENI, nel proprio paese, negli Stati Uniti. E al tempo stesso anche i venezuelani che hanno detto: ma come, noi abbiamo ceduto l'oro di famiglia a una società russa, questa decisione avrebbe dovuto passare dal Parlamento. Quindi un fuoco incrociato e interessi moltiplicati e difficili da matasse, difficili da dipanare. Grazie mille Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Adesso andiamo sulle strade italiane, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Avrei voglia di un giallo, anzi di un thriller da paura. Io di una commedia, qualcosa di leggero, che faccia ridere. Io vorrei immergermi in un romanzo introspettivo e disturbante. Sono Alessandra Tedesco, il cacciatore di libri, e quest'estate vi farò compagnia con i consigli di lettura. Vi aspetto ogni sabato alle 6.30 alle 22, la domenica alle 16.15 alle 20.45, dal lunedì al venerdì edizione Flash alle 13.10. Non avete preso appunti? Niente paura. Trovate tutto, compreso il podcast, su radio24.it. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ultima pagina di Nessun Luogo Lontano di questo venerdì. Faccio tempo a leggervi un SMS che è arrivato al 349-238-6666. Anzi, un WhatsApp. C'è chi ancora si stupisce del comportamento aggressivo degli Stati Uniti. C'è chi dice: consumano tante energie in Iraq, in Afghanistan per, virgolette, esportare la democrazia. Insomma, la politica statunitense, lo sappiamo, è quella, è piuttosto aggressiva nel mondo. Adesso però, ve l'avevo anticipato, è il momento di andare in Thailandia. È il momento di andare in Thailandia perché oggi doveva celebrarsi il processo del decennio, cioè doveva comparire alla sbarra e difendersi l'ex primo ministro Ingluck Shinawatra, accusato di corruzione per un immenso programma di sussidi ai contadini nella coltivazione del riso. Ma è scattato il colpo di scena. Prima gli avvocati dell'imprenditrice hanno chiesto una proroga sostenendo che Ingluck non poteva presentarsi per ragioni di salute, poi si è scoperto che l'ex primo ministro era semplicemente scomparsa. Molto ragionevolmente è fuggita all'estero. Perché questa fuga è così importante? Per capirlo dobbiamo capire quanto è stata importante la figura di questa ex primo ministro e della sua famiglia di imprenditori. La Shinawatra è stata la prima donna premier nella storia della Thailandia, eletta nel 2011, esautorata poi da una decisione della Corte Costituzionale. È molto amata dai contadini, detestata dall'elite colte della città thailandesi. Ingluck è anche la sorella di Thaksin Shinawatra, l'ex poliziotto diventato miliardario che volle anche farsi politico diventando primo ministro. È vero kingmaker della politica thailandese dalla fine degli anni 90 fino al 2006. Quando nel 2006 Thaksin fu deposto dai militari, la Thailandia fu attraversata da un'ondata di proteste che vedeva la popolazione suddivisa tra le camicie gialle e le camicie rosse, quindi oppositori e sostenitori. Spaccature che si sono ripetute anche quando è stata eletta Ingluck e ora, con la sua fuga, sono finite, forse dopo un ventennio, diciamo, le peripezie di questa dinastia. Per capire se davvero questo giallo segna la fine della dinastia degli Shinawatra e in qualche modo una resa rispetto alla giunta militare, ci soccorre Massimo Morello, giornalista freelance di base a Bangkok. Scrive, fra le altre cose, sul Foglio, Rivista Studio e altri giornali. Massimo Morello, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, ci sono delle ipotesi secondo le quali Ingluck sarebbe fuggita con il consenso dei suoi nemici, cioè la giunta militare. Ti sembrano plausibili? L'idea dietro questa teoria è che alla fine una fuga protetta, diciamo, dell'ex primo ministro faccia comodo a entrambi. Lei si salva la pelle dal punto di vista giudiziario e i militari hanno via libera. Sto un po', come dire, prosaicizzando la questione. No, no, ma è una delle ipotesi più realistiche. Diciamo che se non con il consenso dei militari, ai militari il fatto che lei sia fuggita fa molto, ma molto comodo. A lei politicamente molto, molto di meno. Dopodiché Jinglak è un personaggio fragile, è una di quelle donne politiche che piangono spesso, per intenderci. Ricorda anche altri personaggi nostrani, quindi probabilmente lei non se la sentiva di affrontare il carcere, magari anche solo per poco, e tutta una serie di disagi, inconvenienti, non ultimo probabilmente anche il sequestro dei beni che sono rimasti in Thailandia. Quindi può aver scelto di rinunciare a diventare una martire, un'eroina, come poteva essere un San Suu Kyi in Birmania, sì, per vivere più tranquillamente e comodamente. Politicamente questo probabilmente segna, se è fuggita, segna la sua fine. Ecco, la famiglia Shinawatra per la Thailandia ha rappresentato molto, no, negli ultimi 20 anni. Questo potrebbe essere l'ultimo capitolo di questa importante famiglia. Ci aiuti a capire meglio quali dinamiche ha intercettato della società thailandese: il populismo, il riscatto delle masse contadine. Che cosa rappresentava questa lunga dinastia? Ma guarda, questa dinastia ha rappresentato moltissimo per la Thailandia, nel bene e nel male. Cominciamo dal bene. Nel bene Thaksin, soprattutto il fratello di Jinglak, perché non dimentichiamoci che lei comunque è una sorta di avatar del fratello che è in esilio, ma è sempre stata teleguidata da suo fratello, ma per ammissione stessa del fratello di Thaksin. Thaksin cosa ha rappresentato? Thaksin è stato il primo che ha dato una vera e propria voce al popolo e che ha dato al popolo il senso della sua dignità. Il discorso sarebbe molto lungo, ma diciamo che in Thailandia, per motivi culturali, storici, religiosi, si è sempre verificata una differenziazione di classe e di casta, se vuoi, che è sempre stata anche accettata dalle caste inferiori, cioè le caste inferiori o le classi inferiori economicamente, socialmente, culturalmente, hanno sempre guardato con rispetto, con reverenza alle classi superiori. Ecco, Thaksin è stato quello che ha detto: "Bah, guardate che siete uguali agli altri, siete come gli altri, avete gli stessi diritti. Il vostro voto vale esattamente come il voto del vostro datore di lavoro", anche se in Thailandia più che datore di lavoro è sempre più opportuno definirli padroni, perché il concetto era servo padrone. Quindi sì, fondamentalmente lui ha detto ai serli: voi politicamente contate quanto i vostri padroni. Altro elemento importante della politica di Thaksin è stata una politica, chiamiamola social popolare, che ha avuto degli innegabili elementi positivi, come una riforma sanitaria che ha aperto l'accesso, sì, alla sanità fondamentalmente a tutti. Dopodiché questa politica social popolare è diventata sempre più populista, cioè Thaksin sapeva, si rendeva perfettamente conto che guadagnava il consenso della popolazione con manovre di estremo populismo, che poi hanno creato dei problemi economici enormi, sì, al paese. Da qui poi tutto ciò che ha creato questo caso, cioè Jinglak è stata eletta nel 2011 fondamentalmente con un programma di facilitazioni per gli agricoltori che non erano assolutamente sopportabili da parte delle casse dello Stato, che si sono concluse con dei contadini molto molto molto contenti e con una perdita di 8 miliardi di dollari per le casse dello Stato. Questo ha poi determinato, è stato uno degli elementi o una delle concause della sua caduta e del colpo di Stato del 2014. Chiarissimo. Massimo Morello, sono quasi in chiusura, se riesci in 20 secondi, adesso il governo thailandese come si sposta in equilibri? È vero che la Thailandia è sempre più vicina alla Cina, la giunta militare guarda a Pechino, veramente 10 secondi, tipo sì o no? Dopodiché la Thailandia guarda sempre a tutti, definire lo sguardo del thailandese è difficilissimo, guarda quello che in quel momento, in quell'istante gli fa più comodo, ma c'è sempre un occhio spostato verso l'altro. E vedremo i giudici dove guarderanno, gli inquirenti, insomma, se l'ex prima ministra è sparita davvero, se è stato un accordo. Grazie mille Massimo Morello, giornalista freelance, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, titoli di coda. Con i quali intanto devo scusarmi con l'ascoltatore di prima, perché ho riassunto anche abbastanza male il suo messaggio. Lui voleva dire: ma come, gli Stati Uniti sono presenti ovunque, potrebbero essere presenti meglio in America Latina, e invece droga, criminalità, povertà, quando l'America intera potrebbe essere un continente formidabile. Detto ciò, ringrazio Antonio Talia e Elisa Pancaldi che hanno confezionato con me questa puntata, Gianmarco Ferronato e le sue pennellate musicali, voi per essere stati all'ascolto. Se volete c'è il meglio di Nessun Luogo Lontano domattina alle 7, domenica alle 19, e se vorrete lunedì ore 16 vi aspetto di nuovo quando Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.